piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Quanti sanno il significato di questo suono? Non voglio dirlo subito, voglio fare una prova, un test. Io darò subito voce a chi chiamerà all'800240024 e racconterà al mondo cosa significa questo suono. E intanto introduco la trasmissione di oggi. Non ditemi perché fai questo argomento, non lo so nemmeno io. La chiamano la maledizione dei faraoni. La vendetta contro avventurieri che disturbano le sacre tombe delle piramidi. 1699, una nave polacca che trasporta due mummie è perseguitata da visioni spettrali e tempeste atroci. 1803, quattro membri di una spedizione entrano nella piramide di Khefren per non fare più ritorno. 1922, viene aperta la tomba di Tutankhamon e delle morti tragiche colpiscono la squadra degli scavi archeologici. Nei successivi 91 anni nessun'altra tomba è stata violata. Di loro di non aprirla, digli di aspettare. Fino ad ora. Che gli è successo? Aria tossica. Che si trova solitamente nelle caverne e nelle tombe che sono state sigillate. Come potete vedere, la piramide dietro di me ha soltanto tre lati. E non quattro come le piramidi di Giza. Guarda quanto è grande. Vanì. Ma cos'è? Dice che non si può entrare. Questa è la scoperta del secolo. Scordatelo che io non venga dentro. State vicini e non toccate niente. Guardate qui. Che cos'è? Le incisioni raccontano una storia, è un avvertimento. Per che cosa? Che succede? Dobbiamo uscire da qui uno alla volta. Vabbè, dai, chi soffre di claustrofobia in questo momento sta già agonizzando sul pavimento. Beh, rendete conto, si parla di qualcosa, che comincia a essere messo pietra su pietra 3000 anni prima di Cristo, poi ne sono passati altri 2000 e passa. E ancora noi siamo qui a pensare, a immaginare, a sognare cosa siano stati gli antichi egizi. Cos'è oggi l'Egitto? Ma oggi l'Egitto è tutt'altra cosa. Chi va a visitare la spianata delle piramidi, ma una grossa delusione. È bella come si vede, si stanno alle spalle tutto quello che c'è, la città, le strade, il rumore, il casino. Sì, lì davanti ancora ci sono quelle piramidi, uno entra dentro, ti ci portano le guide. Hai un minimo di senso di aver già tutto visto, l'abbiamo già visto, siamo già contaminati dalle piramidi prima ancora di entrarci, sembra di aver già visto tutto, perché quanti film, telefilm, dal bianco e nero in poi, dalle mummie a Indiana Jones, a tutta la saga di Harry Potter, che è comunque legato all'antico Egitto, a tutto Stargate, passano attraverso questa sorta di varco spazio-temporale nel futuro che in realtà è il passato, in realtà gli alieni sono gli antichi egizi. Quanti lo pensano, quanti lo dicono, quanti lo immaginano, quanto è stato materia comunque di costruzione e speculazione. Beh, tutta la simbologia massonica legata all'antico Egitto, sono tutte roba che comunque ha a che fare con gli egiziani. Per anni, per tutta la televisione degli anni 90 fino alla fine del vecchio millennio, forse ancora qualcosa di residuo, cioè non l'ho più trovato, non va più di moda. C'è qualcuno che vendeva la piccola piramidina egizia, una piramidina in scala, in miniatura, se la orientavi con la bussola, quanti ne hanno venduto? Mi pare anche Vandamarchi un periodo le vendesse, capito? Faceva cose straordinarie, ci mettevi dentro un oggetto e improvvisamente, non so, brillava di luce propria, oppure che ne so, c'è qualcuno se le faceva costruire anche a dimensione uomo, una piramidina di 1,5 metri di base, c'entravi dentro, lo orientavi, non so, avevi un benefico influsso, poi hanno inventato il Viagra, non c'era più bisogno. Beh, insomma, gli egiziani ci hanno molto contaminato. Oggi vorrei, in questa mattina, che non si sa bene cosa sia, è la mattina post Halloween per qualcuno, per l'Italia godereccia, laica, che si lascia contaminare dalle mode che vengono da lontano, oppure è la giornata in cui si ricordano i santi. Un amico scrittore ha scritto nel suo profilo Facebook: ho visto di fronte alla mia parrocchia che il prete aveva costretto alcuni bambini per fare una festa anti Halloween a vestirsi da santi, e legge negli occhi del piccolo Sant'Antonio da Padova tutta l'invidia, tutto il rimorso, tutto il dolore per vedere i suoi amichetti vestiti da zombie, da mummia, da strega, per essere lì vestito dal santo di Padova. Chissà quale trama conserverà tutta la vita, ma 800 24 00 24, parlatemi a braccio, quello che voi sapete, quello che voi avete sentito dire. Non voglio storici, non voglio informati, voglio sapere quanto ancora l'antico Egitto dei faraoni ci contamini oggigiorno. 800 24 00 24. Non osi toccare quel sarcofago. Si ricordi della maledizione del grande faraone Amon-Ra? Ognuno se la ricordi. Io non ho paura di quella stupida maledizione. Sei uomini sono morti prima di lei, signor Wentworth. Sei uomini che avevano sfidato il potere di Amon-Ra. Se c'è giustizia su questa terra, allora lei sarà il settimo! Rimando il fatidico suono perché sto facendo un sondaggio nel mio pubblico, un pubblico che dovrebbe essere per me ultra trentennale. Se qualcuno ha nella sua memoria radiofonica di cosa si tratti, cos'è questo suono, cosa significa, cosa ha significato. È qualcosa comunque legato all'antico Egitto. Dottoressa Massimiliana Pozzi Battaglia, buongiorno. Buongiorno. È la coordinatrice scientifica della mostra Egitto, la straordinaria scoperta del faraone Amenofi II, che è al MUDEC da Milano fino al 7 gennaio 2018, quindi già a Milano avete una maniera tangibile per attraversare l'antico Egitto, con tutto il suo aspetto leggendario e il suo aspetto storico. Dottoressa, ma è d'accordo con me che sovrasti di gran lunga quella che è l'informazione reale, l'interesse storico, quello che è l'aspetto leggendario dell'antico Egitto? Io sono molto d'accordo con lei, perché la cultura egiziana ha rappresentato meglio di qualunque altra l'aspirazione naturale dell'uomo all'eternità, e proprio il tipo di arte egiziana che continua a essere, diciamo, attuale e moderna, perché ha un modo autonomo di rappresentare le cose immediatamente riconoscibile da chiunque, anche da un non esperto, ed è capace di diventare sempre simbolo che rivela e nasconde, spirituale e materiale al tempo stesso. Ma lei, dottoressa, non ha l'impressione, quando poi le persone vengono al MUDEC, che attraversano comunque questa mostra di cui poi parleremo, abbiano sempre questo senso quasi di sensazione di entrare in una sorta di fenditura aperta in uno spazio, in un tempo che ci porta altrove? Chissà perché ancora gli egiziani riescono a mantenere questa idea, perché si sa poco di loro. Mi sembra sappia molto più degli egiziani, non so, che degli etruschi ad esempio. Perché degli egiziani si rimane così affascinati? Io penso appunto che sia la forza di un'arte primitiva e simbolica, che nello stesso tempo, pur essendo appunto una cultura molto lontana nel tempo, è riuscita a trasmettere un messaggio che, secondo un loro augurio, dura milioni di anni. Cioè, hanno avuto una capacità di rappresentare le cose in una maniera che ancora oggi affascina il bambino, l'adulto. E poi c'è sicuramente tutta una serie di caratteristiche legate alla conservazione delle cose egiziane che è unica. Quindi il fatto che abbia la sabbia del deserto restituito, addirittura i corpi, le mummie, facendogli attraversare, come ha detto lei, millenni. Perché oggi parliamo... diciamo, le mummie è facile vederle anche per Corso Como, nelle strade della moda e del fashion milanese, quindi diciamo che sono più le mummie che camminano quelle che stanno ferme al MUDEC. Sì. Senta, voglio anche a lei sottoporla a questo test, dottoressa Massimiliana Pozzi Battaglia. Ascolti. A lei, dottoressa, dice niente questo suono? Ma penso, ma non sono sicura che sia il tentativo di far suonare le trombe di Tutankhamon. Brava, Beh, lei sa che sono stato io a donare al mondo questa idea. Dunque, vediamo, mi hanno chiamato molti ascoltatori, cominciamo a sentirli così diamo anche una lettura agli ascoltatori più frequenti. Allora, la dottoressa Massiliana Pozzi Battaglia, che è una studiosa profonda, attenta, è riuscita a individuare il suono delle trombe di Tutankhamon. Benedetto, buongiorno. Buongiorno. Cos'è quel suono? Sì, anche a me ricordava il suono della tromba di Tutankhamon, una tromba d'oro il cui suono... D'argento erano, non ti sbagliare, che è gravissimo sbagliarsi. Erano d'argento. Ecco, il cui suono avrebbe dovuto produrre un cambiamento di stato di coscienza, ascoltati in un certo modo... Bene, questo benissimo, Benedetto. Enrico, cos'è quel suono? Enrico? Sì, no, è il suono delle trombe di Tutankhamon, come ho già detto. Sì. Sono state suonate solo in un'occasione, poi non hanno più funzionato. Mi ricordo che c'era nella sua trasmissione questa spiegazione. Questa... Lei si ricorda l'epopea delle trombe di Tutankhamon? Bene, Franco, buongiorno, cos'è quel suono? Sono le trombe di Tutankhamon, ce l'ho nella mia suoneria del telefono. Lei ce l'ha nella suoneria del suo telefono, ancora? Sì, benissimo. Verosimilmente sono state suonate al Museo Egizio di Torino, se non ricordo male. Comunque sono informazioni che... Allora, racconto bene. Grazie agli ascoltatori, mi hanno confortato. Grazie a Massimiliana Pozzi Battaglia. Racconto questa storia nello specifico. Nel 1995 a Radio Rai facevamo un programma che parlava di stranezze prese dalla rete. Trovammo un file, ma allora file significava come oggi trovare una pepita d'oro, internet era soltanto figurine, qualcuno aveva messo un suono in rete, noi che facevamo radio ci sembrava singolarissimo, stranissimo, da mandare alla radio. Era un certo Hans Vandenberg che aveva messo un file che aveva trovato, rieditato e messo plausibile per la rete, allora c'era Real Player, anno 1995 mi ricordo, quindi era difficilissimo comunque mettere in rete un file, erano pesantissimi, via dicendo. Questo file era un file trovato negli archivi della BBC, perché nel 1939 la BBC avevano fatto un esperimento, avevano suonato le trombe del faraone Tutankhamon che erano state trovate appunto nel 22 da Howard Carter nel tesoro del faraone. Io sono andato a vederle al Cairo, al Museo del Cairo d'Egitto, hanno delle belle trombe d'argento, alla BBC vogliono fare questo esperimento, le suonarono. Allora, le trombe si ruppero subito, quindi sono insuonabili. Questo è l'unico file dell'unico suono, le trombe di Tutankhamon. Ma cosa accadde? Si interruppero tutte le trasmissioni alla BBC, si ruppero tutto il sistema, per una settimana non ha più funzionato nulla. Mi sembrava fantastico, cominciai a mandare alla radio le trombe di Tutankhamon. Avvenne un episodio di cui parlò tutta Italia, perché... fu una sorta di leggenda metropolitana che conferma comunque questo aspetto strano, fascinatorio, irrazionale che hanno gli egiziani, che improvvisamente cominciarono a chiamarmi dai centri di calcolo di alcune università italiane, fra cui anche la Sapienza, che mandare quel file bloccava i loro computer. Oggi è una spiegazione un po' più tecnica, erano sistemi operativi molto lenti, molto arcaici, avevano una potenza di elaborazione molto lenta, mandavi un file audio e magari si impallavano i computer. Comunque cominciò a girare la voce che questo suono portasse sfiga, facesse una sfiga tremenda. E naturalmente la profezia si autoavverò, cominciarono a telefonarmi persone che avevano riprodotto il suono di queste trombe, avevano avuto degli effetti nefasti, cominciarono a chiedermele per le suonerie dei telefonini, non c'erano ancora gli smartphone, ma c'erano i telefoni cellulari, si mandavano su segreteria telefonica per fare degli scherzi alle persone. Insomma, l'Italia per qualche tempo, mi ricordo, scrisse un articolo sul Corriere della Sera, mi sembra proprio il direttore di allora, non ricordo bene se fu proprio Ferruccio De Borto, disse basta, non mandare più questa musica, perché noi facciamo una riunione di redazione, c'è sempre qualcuno che la manda, e a questo punto cominciamo tutti a toccare. Insomma, avevamo creato una sorta di leggenda nera, un mito che a distanza di quasi 20 anni, 25 anni, 22 anni, ancora permane, ancora qualcuno si ricorda, anche una studiosa, che le trombe di Tutankhamon era qualcosa che comunque entrava in irruzione nella nostra realtà, di qualcosa che noi non riuscivamo a concepire. 800240024, ne sapete altri sugli egizi che vi fa paura? Chi ha costruito le piramidi d'Egitto? William Henry ritiene che esistano prove schiaccianti sulla loro costruzione per mano aliena. Credo che le piramidi siano un enorme apparato energetico in grado di trasmettere e ricevere energia da punti distanti dello spazio. La chiave di tutto è la loro posizione, al centro esatto delle terre emerse. Giusta o errata che sia, l'idea che migliaia di anni fa gli alieni abbiano fatto visita alla Terra, cambiandone per sempre la storia, si diffonde a macchia d'olio. Prima di von Däniken, molti altri personaggi scettici nei confronti... Allora, la grande lettura è che gli egiziani altro non furono che gli alieni che sono venuti sulla Terra, hanno messo a punto tutta la loro tecnologia, assieme naturalmente ai cerchi sul grano, a tutte le i bassorilievi inca e tutte le cose che troviamo, capito, di cui non ci diamo spiegazione. Questo fu un filone che ebbe molta fortuna in Italia negli anni 70. Da noi Peter Colosimo, un signore di Colosimi, scrisse una serie di libri, Non è terrestre, in cui dava lettura comunque attraverso quella che è la storia dell'antico Egitto. In realtà c'è una storia che è una metastoria, va oltre la storia ufficiale, che è la storia di civiltà aliene che ci hanno colonizzato. Giancarlo, lei ne sa qualcosa? Sì, buongiorno Nicoletti. Mi sente bene? L'ascolto benissimo, sì. Bene. Anche se no, le mani non sono sul tavolo, perché sa, con le trombe di Tutankhamon bisogna stare molto attenti. Ah, ecco, le tenga nel posto giusto. Certo, niente, io premetto che non sono un cultore proprio fanatico di queste cose, però la mia opinione è che le piramidi non le abbiano costruite gli egizi, per il semplice motivo che, essendo un popolo di grafomani, cioè descrivevano pure quando andavano... Erano scribacchini, non erano uomini di fatica. Appunto, ma c'erano gli schiavi, scusi. Possibile che non hanno lasciato nessuna traccia su come hanno costruito le piramidi, che dovrebbe essere poi il loro punto d'orgoglio. Quindi non c'è scritto nulla. E se io vedo la piramide, mi domando come hanno fatto a costruirla. Ma se io vedo un nido d'aquila, non è che mi domando, cacchio, ma quel passero come cavolo ha fatto questa? Sicuramente era qualcuno di più grosso. E la mia opinione è che sulla Terra abitavano dei giganti. Ah, quindi non soltanto alieni, ma anche giganti? No, io non scomoderei neanche gli alieni. La Terra ha una storia talmente lunga che non è escluso che possa essere esistita una popolazione di uomini abbastanza corpulenti. Sì, in Sardegna ci sono delle tombe con uomini molto grossi, molto lunghi, gigantesche. Certo, sì. Allora... sono citati anche nella Bibbia, tra l'altro. I giganti, certo. Sì, perché se fossero stati alieni, allora Mosè col cavolo che attraversava il mare... Forse è un alieno anche Mosè, che ne sai, l'arca era tutta un'astronave. Però vede come faccio, a scivolare poi in quella che è una storia che è basata su elementi scientifici, pochi ma almeno verificabili, il resto sono interpretazioni, su una storia religiosa che è basata su un atto di fede e su una storia che si costruisce accanto, che è basata su interpretazioni che non hanno base scientifica ma hanno una base suggestiva notevole. Ci fermiamo un istante. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Birra Antoniana. In ogni birra una storia. Scoprila su birraantoniana.it. Melog. Quando la mummificazione è completa, Seti viene sepolto nella valle dei re d'Egitto. È qui che inizia la sua lotta per la resurrezione. Deve intraprendere un viaggio attraverso l'antica versione egiziana dell'inferno. Seti avrà bisogno di una guida dettagliata per attraversare un regno terrificante. La sua guida è il libro delle porte, che è dipinto sulle pareti della sua tomba. Altro che vacanze fai da te, bisognava avventurarsi nel regno dei morti. C'era appunto il libro egiziano dei morti che spiegava dove andare, dove non andare, era come una sorta di trip advisor, bisognava capire bene, sennò si rimaneva intrappolati per sempre. Rispondo velocemente all'ascoltatore di prima che si domanda come mai non hanno lasciato scritto nulla agli egiziani sul segreto della costruzione delle piramidi, ma proprio un mese fa è stato trovato un nuovo papiro dentro una barca rituale, proprio in uno scavo nella Valle dei Templi, dove c'è scritto che pare ci fosse un sistema di canalizzazioni, questi blocconi di pietra enorme, pare che 170.000 tonnellate di pietra calcare venivano portati da 800 km di distanza attraverso un sistema di canalizzazione, insomma li mettevano sulle barche, li portavano sotto la piramide, poi con un sistema ingegnoso di pulegge, di leve, le mettevano su, poi insomma c'erano tanti schiavi, facevano presto loro. E ricordo Massimiliana Pozzi Battaglia, che cura la mostra sull'Egitto, che è al MUDEC di Milano, durerà fino al 7 gennaio 2018, che è dedicata però a un faraone, Amenofi II. Ma come può essere considerato Amenofi rispetto a Tutankhamon? Un faraone, beh, vissuto, sembra 1500 anni dopo, qualcosa del genere. Un po' più giovane come diciamo, affondare nelle radici del mistero egizio. Allora, diciamo che Amenofi II vive intorno al 1400 avanti Cristo, quindi siamo molto tempo dopo le piramidi, tanto è vero che lui stesso è stato un restauratore della Sfinge, la liberata dalla sabbia che l'aveva già inghiottita, e proprio lì ha eretto un tempio a fianco alla Sfinge per ricordare le sue imprese e anche per vantarsi di questo suo importante restauro. Quindi anche loro, nella lunghissima storia che hanno avuto, avevano comunque già rivestito l'epoca delle piramidi di magia e di leggenda. Quindi chiuderò un occhio sulle teorie dei giganti e degli alieni. Ma sì, ma questa mattina, dottoressa, è chiaro, noi abbiamo messo insieme quello che è l'immaginario, che in fondo è pullula di aspetti fantastici, e la verità storica, cioè, che è quella che dice. Noi egittologi, perché noi siamo molto lenti a pubblicare i nostri risultati e spesso, al di là di questo, non siamo dei buoni comunicatori, quindi lasciamo, diciamo così, spazio a chi invece ammanta le nostre scoperte così di teorie fantastiche. E però lei sa, professoressa, che il mito è sempre più invasivo e più facilmente comunicabile che la realtà scientifica. Assolutamente. Sennò non staremmo a parlare di vaccini, non staremmo a parlare di scie chimiche, è chiaro questo. Però ci tengo anche a dire che ogni egittologo è anche molto innamorato dell'Egitto in maniera fascinosa, cioè questa cultura ha un'aurea magica che comunque coinvolge anche l'egittologo. Poi, lei come ha scelto di diventare egittologa? Questo mi incuriosisce. Io l'ho scelto alle elementari, da bambina, è stata un'attrazione fatale che poi non mi ha mai più lasciata. E poi vede, all'inizio era il mito che l'attirava, lei parte dal mito, poi arriva alla realtà, alla ricerca, chiaro. Alla ricerca, ma senza mai perdere il mito, cioè nel cuore di ogni egittologo, anche quando lo nega e prende un'aria accademica e severa per contrastare appunto tutto questo tipo di teorie, comunque la fascinazione di questa civiltà rimane sempre presente. Ma anche solo per scherzo, professoressa, esiste fra voi un po' questo senso scaramantico, in fondo di gente ci ha lasciato, no, le penne qualcuno, questo no, in queste cose? Questo no, non esiste egittologo che abbia paura degli influssi negativi, nel senso però che la voce gira. La voce gira perché in molte tombe c'erano delle formule che servivano a garantire il rispetto del defunto, e quindi ovviamente queste formule hanno un aspetto minaccioso, quindi se lette e tradotte in un certo modo suonano come delle maledizioni. E ovviamente il giornalismo, soprattutto degli anni della scoperta della tomba di Tutankhamon, che vive circa 200 anni dopo il nostro Amenofi II, hanno incrementato moltissimo tutto questo, perché si sono verificate una serie di episodi facilmente, diciamo così, trattabili in quel modo, e quindi tutto questo ovviamente ha fatto credere. Beh, qualche coincidenza c'è stata, qualche morto c'è stato, però erano anche momenti difficili, era facile, non c'erano le cautele e la cura, diciamo, igienica che c'è oggi. In Egitto erano una cosa che poteva capitare, però il povero Tutankhamon non credo c'entrasse molto, anzi sono sicura che non c'entrasse molto. Beh, anche perché ormai non era più in condizioni, perlomeno, esatto, di nuocere. Di nuocere a nessuno, esatto. E quindi insomma la nostra mostra invece è dedicata a un faraone che vive nel 1400 avanti Cristo, un grande faraone che è stato protagonista di un periodo di grande benessere per l'Egitto antico, e che ha vissuto sotto il suo regno in Egitto, ha vissuto benissimo, ma poco riconosciuto e ricordato dalla storia, perché viene immediatamente dopo un faraone ancora più grande di lui, suo padre Tutmosi III, che era un grande combattente, un grande guerriero, e la sua, sostanzialmente la sua fama ha oscurato quella del figlio. La storia trasmette sempre la fama delle persone terribili. Hitler sarà ricordato probabilmente chissà fra quanto, magari chi ha inventato il vaccino antipolio sarà dimenticato. È così, purtroppo è così, è un meccanismo perverso ma concreto. Ci si ricorda soltanto di quelli legati a una fama sinistra, funerea, leggendaria, e questo faraone, che è una bravissima persona, un faraone illuminato, un faraone che sarà rappresentato sicuramente nella mostra di Milano nella più suggestiva delle maniere, ma gli renderemo giustizia parlando di lui, ma fra un istante. ibrido Toyota, la scelta inevitabile per il tuo business. Vi presenta... Melog. Così come nel processo di mummificazione, è molto probabile che abbiano tentato di imitare il ricordo di un qualcosa che avveniva, cioè di corpi, di individui che apparentemente morivano qui e poi andavano a rinascere da un'altra parte, cioè in un altro mondo che poi viene identificato, diciamo così, con un cosiddetto paradiso. Ma se noi rimaniamo sempre nell'ambito del facciamo finta che, il processo di mummificazione è molto simile a quello che noi conosciamo come processo di ibernazione, che può essere usato per lunghissimi viaggi. Per cui si vede che un individuo qui apparentemente muore, viene trattato in un certo modo e si sa che va a rivivere da un'altra parte. Poi questa cosa qui può aver avuto una evoluzione di ordine spiritualista e quindi poi questo è passato con la resurrezione, eccetera. Questa è un'altra lettura, questo è Mauro Biglino, un interprete molto noto della Bibbia, vista in chiave come testo di altre civiltà aliene che hanno creato l'umanità come esperimento genetico. Quindi anche gli egiziani mummificati sono come quelli nei film di fantascienza astronautica, che vengono ibernati per superare la barriera spazio-temporale, per entrare in un buco nero. Si ibernano, e gli egiziani che abbiamo trovato mummificati non sono mummificati, sono ibernati perché devono risvegliarsi. Però poi siamo arrivati noi, l'abbiamo messi nei musei e quindi rimarranno per sempre con i bambini che si faranno i selfie davanti a loro. Maria Teresa da Alessandria. Buongiorno. Buongiorno. Questo è un ricordo di quando ero piccola, che avendo una mamma nata al Cairo e una nonna nata al Cairo, perché mio bisnonno aveva fatto una società importante, esposizione di Parigi. Cioè, allora, faccio capire, lei sta Alessandra in Italia. Alessandra in Italia. Alessandria, combinazione Alessandria in Italia. Però quindi dal Cairo, da Alessandra sono andati al Cairo, così sentiamo. Sì, dall'Italia sono andati al Cairo, poi sono ritornati ad Alessandria, Italia. Comunque l'argomento che lei tratta... Ma lei, sua madre è nata al Cairo, non lei? Mia madre è nata al Cairo e mia nonna è nata al Cairo. Quindi erano italiani che lavoravano al Cairo per costruire... Esatto, ha fondato una ditta molto importante dell'esposizione del 28 a Parigi, con mio bisnonno. Comunque, al di là di queste notizie... No, questo è interessante invece. Cioè loro portavano reperti egiziani a Parigi per l'esposizione? No, mio nonno aveva fondato una società per cui da allora aveva fatto tutti i mobili e tutte le cose che riguardavano la parte egizia e le aveva portate all'esposizione di Parigi del 1928. Ah, ricostruivano, diciamo, su modello originale, esatto, gli arredi delle piramidi. Beh, molto interessante. Ho ancora tutti gli arredi, ho ancora tutti i mobili che sono stati riportati dall'Egitto. E li tiene a casa Alessandria? Esattamente. Beh, interessante che non fa una mostra, perché avere le copie originali... In contatto con la signora Battaglia. No, la metterò in contatto. No, ma è interessante perché, scusi, suo nonno aveva davanti gli originali, l'ha ricostruita e l'ha portata a Parigi. Ho tutto il libro che è stato scritto da due docenti di Torino dell'università, che riguardano proprio mio bisnonno. Poi, che ha fondato a Torino, diciamo che di egizi, di maledizioni, cose ne hanno a bizzeffe. C'è il sarcofago del mio bisnonno, c'è il monumentale del comune. Ma suo nonno si è fatto mettere, quando è morto, l'hanno messo in un sarcofago? Esatto, un sarcofago che è stato dato da allora dal Khedive, perché è un questa nome è una importante. Notizia. Cioè, suo nonno, un italiano che è andato al Cairo a costruire i mobili, quando è morto si è fatto un sarcofago? No, non lui quando è morto, gliel'ha fatto il Khedive quando è morto, gli ha mandato il sarcofago in Italia nel Monumentale di Torino. Uguale a quello degli Egizi, cioè uno come un faraone. Uguale a quello degli Egizi. Ma sopra c'è suo nonno con le braccia incrociate, col cappello egiziano. Questo voglio dire, perché io chiaramente non potevo sapere. E l'hanno mummificato il nonno? Non glielo so dire. È come, non so dire notizia di famiglia. Dentro là non ci sono stata, quindi non posso dirglielo. La sua madre non gliel'ha mai raccontato, il nonno è stato un... No, mi ha raccontavano nell'argomento che lei trattava. Io sono venuta in relazione a quell'argomento che lei trattava, in quanto da piccola ho sempre sentito raccontare da nonna e da mamma questa parola che non veniva pronunciata il nome di questo faraone. Quale faraone? Scusi, quale faraone? Quello che lei ha sempre nominato. Da me nominati tanti, quale? Scusi? Quale non, non quello del... Non cioè lei non ha il coraggio di dire Tutankhamon? No, non l'ho mai detto e non lo dico. Non l'ha mai detto in sua vita. Perché? Cosa le diceva sua madre? Perché perché nella memoria mia, di quanto ricordavo da mamma e nonna, non veniva pronunciato, e ricordo che loro dicevano... Ma come lo chiamavate? Quello lì, quella persona? No, lo nominavano, parlavano dell'Egitto, visto che sono vissuti là, hanno raccontato tante cose, quello che riguardava allora la E perché non venivano nominato? Perché? E perché, appunto, come lei ha detto, e come lei ha portava testimoniato, male. E portava male. L'ha mai vista la mummia Tutankhamon? No, le ripeto che io guarda, se la cerca, se lo cerca, poverino, ha un destino molto triste. Perché se in internet uno digita su Google c'è la foto e lui tutto nudo, si vede anche che c'ha un pistolino di 2 centimetri, è disgraziatissimo, poverino. Ma scusi, questo a me non riguarda, io volevo solo testimoniare il mio ricordo. Come, perché la storia sua e quello che lei sta trasmettendo ora riguardava questa cosa che io ho sentito da bambina, e quindi volevo semplicemente portarle la mia testimonianza, niente di più. Allora, Massimiliana, è interessantissimo. Massimiliana Pozzibattaglia, l'egittologa, starà strappandosi i capelli, però capisce la vulgata. L'idea di avere il contatto della signora. Ah, gliela passo. Dopo voi mettiamo in contatto a tutti i mobili originali fatti dal nonno, che poi quando è morto l'hanno messo in un sarcofago a Torino. È una storia da raccontare. Ma felicissima di avere i contatti, signora. E ma potete esporre anche il nonno della signora assieme a Menofi II? No, non c'entra niente. No, direi di no, però è interessante. Comunque ci tengo a dire che il cuore della mostra è proprio basato sulla scoperta della tomba di Amenofi II, perché la tomba di Amenofi II ha restituito un numero di mummie incredibile. Quante ce n'erano? 13. 13 mummie? Sì. Compreso lui? Compreso lui o senza lui? Compreso lui, che stava nel suo sarcofago originale, anche se la tomba era stata profanata, poi lui vi era stato, diciamo, ricollocato. Ma nessuno ha mai detto, vedi, come i 12 apostoli, c'è una continuità? No. No, poi ce n'erano 9 in un annesso, che erano tutti grandi faraoni che erano stati nascosti lì durante la 21esima dinastia, quando appunto le loro tombe erano state profanate, avevano trovato ricovero dentro la tomba di Amenofi II, e poi c'era un ambiente in cui c'erano 3 mummie dell'ambiente familiare, fra cui la nonna e la mamma di Tutankhamon. Ma se io vengo al MUDE, che queste cose in qualche maniera me le fate vedere? Gliele facciamo vedere in più di una maniera, ma ovviamente non le mummie, che stanno tutte al Cairo. Anche non sono trasportabili le mummie, rovinano. Poi appunto noi tendiamo sempre comunque a considerarle, come dire, persone morte, quindi col dovuto rispetto l'argomento viene affrontato. La cosa eccezionale di questa mostra è che presenta tutti i documenti che sono dell'Università Statale di Milano, di Victor Loré, che è appunto l'archeologo che ha fatto lo scavo, che ha scoperto la tomba, e che si pensavano perduti, e invece nella mostra trovano il giusto risalto. Oltretutto la tomba l'abbiamo restituita in quasi in scala 1-1, per cui si ha l'emozione di rivivere la scoperta insieme a Victor Loré, grazie anche a interventi multimediali, eccetera. Cioè uno può farsi un selfie come se fosse un faraone seppellito. Come se fosse dentro la vera tomba. Questo è un attrattivo, immagino sarà la fila da domani, perché solo per aver detto questo. Potete fare un selfie agli amici come se foste dei faraoni, con intorno tutta la tomba. Pensate, cosa fantastica. Esatto. Abbiamo cercato di coniugare l'aura, la magia, il tempo della scoperta, il romanzo, il racconto di una scoperta archeologica, con dei dati invece estremamente filologici e scientifici, cercando di appunto sposare entrambe le anime della lettura dell'Egitto. Quindi in sintesi noi possiamo andare a vedere questa mostra corroborati da tutto il supporto fantascientifico che abbiamo elencato fino ad ora, però abbiamo almeno un percorso di certezza scientifica, è quello che è certo, è storicamente provato, è scientificamente corroborato comunque da reperti, lo avremo. Bene, grazie professoressa Massimiliana Pozzibattaglia, ci attenda tutti nel suo sarcofago, verremo a farci le foto assieme a lei. Alla prossima, divertitevi e buona giornata.